Geek Reflections. Eccoci di nuovo a un'altra puntata di Geek Reflection, il podcast di riflessioni geek delle varie news trovate in rete. Questa è la terza puntata, io sono Riccardo Grassi e come nella prima riabbiamo un grande collaboratore, abbiamo il grande Alberto Armida. Buonasera a tutti. Ciao Alberto. Ciao Riccardo. Come va? Tutto bene? Tutto bene, dai, tutto a posto, si lavora, soliti casini lavorativi, ma tutto bene, finché ci sono è perché va tutto bene. Bravo, finché c'è il lavoro, anche se ce n'è troppo, finché c'è. Ma non è mai troppo. Bravo, bravo. Domanda a bruciapelo. Vai. Due serate di Celentano, cosa ne pensi? Che non l'ho visto. No. Ma io non guardo la televisione. Però lo apprezzi o non lo apprezzi? Per certi versi sì, per altri no. Lo apprezzo come cantante, lo apprezzo come attore, non lo apprezzo assolutamente come pontificatore. Bravo, anch'io. Io l'ho guardato tutte e due le serate. Cioè io non sono un grande musicista, però mi prendere in giro. No, ci mancherebbe. Mi piacciono le canzoni sue, quel tipo di musica lì, mi piace parecchio. Beh sì, no, come cantante sicuramente bravo, adesso giusto visto che hai tirato in ballo il discorso musica, io ne suono parecchie di sue canzoni, come cantante bravo, come attore molto simpatico, non mi piace quando pontifica, quello no. Sì, no, quello magari... Trovo abbastanza fuori luogo. Sì, va un po', ma lì non ha esagerato perché ha fatto parlare altri. Vabbè, meno male. Dopo questo fuori... Fuori programma. Fuori programma, buttiamoci su quello che a me, perché te ti competerebbe anche quello, quello che compete più a me. Io ti ho girato una bella scalettina, mi hai detto che ti piace parecchio, io partirei subito a bomba con il link che ti ho girato, non so se hai visto video. Quel fantastico video della inaugurazione di nuovi device presso... Sì. Negozio Microsoft, non so se è un negozio ufficiale come un Apple Store, non ne ho idea, dove hanno stato invitato... Non io perché non si capisce dal video. Sembra impostato quasi come un Apple Store, quindi una cosa dedicata, però il bello è questo invitato, questo rapper che hanno invitato, che all'inizio hai visto parte tranquillo, col suo rapper un po' slang americano. Poi dopo due minuti ha degenerato completamente. Sì, esatto, si lascia completamente prendere la mano. Sì, no? È saltato sui tavolini, ha distrutto tipo 3 o 4 portatili, computer vari. E il bello che quando cercavano i commessi, per la prima volta hanno cercato di calmarlo, gli ha fatto il ditino medio classico da rapper, proprio cattivo. Ho visto. Poi alla fine hanno dovuto staccare completamente il microfono e l'hanno cacciato. Le tue impressioni? Secondo me Microsoft non si smentisce mai, né nelle presentazioni come il famoso quella famosa schermata blu di presentazione di Windows 98 quando Bill Gates inserisce la chiavetta USB. Non mi ricordo se era 98 o Millennium quello, però. No, o 98. O 98 o 98 seconda edizione, non so qual è. Però io penso che una schermata blu durante la presentazione, penso che sia... È bello... Lì qualche testa è sicuramente rotolata. Sì, ma è bello poi quando quello che era lì insieme a Bill Gates che presentava, che fa... Ops! Una schermata blu in presentazione. E anche in questo caso, secondo me, è un po' un ops. Sì, perché... La figura che hanno fatto, perché il tizio lì, il rapper, a prescindere dall'apprezzamento o meno della musica rap, ha decisamente degenerato, quindi a livello di immagine non è che hanno fatto una grandissima figura, insomma. Non è che sono cattivi i rapper, però non si sa che hanno quest'anima ribelle, controtendenza, guarda Eminem, guarda i vari... È un po', secondo me, rischioso chiamare un rapper. È quasi lui. Sembra quasi che sia cercato di fare pubblicità a lui facendo questa cosa. Poi ha girato in rete parecchio. Sì, però il discorso è che io, cioè, chiunque la veda può pensare alla stupidità dell'uomo, non c'è mai fine, perché veramente. Senz'altro. Cioè, come ti viene in mente di fare una cosa del genere? Diciamo anche parliamoci chiaro, come ti viene in mente di chiamare un rapper a una tua presentazione? No, io non, secondo me. Personalmente, fossi stato al loro posto, non avrei di certo chiamato un rapper. Ma non tanto per... No, ma non per la musica o per il rapper in sé. No, assolutamente, più che altro perché sai già come potrebbe andare a finire. come potrebbe andare a finire. Quindi boh, la scelta è decisamente particolare, Sì. audace sotto certi punti di vista, particolare Sì, sotto altri. un po' azzardata, dai, Decisamente. bello chiaro. Quindi questa era per rompere un po' il ghiaccio della serata, però andiamo ora in notizie un pochino Un po' più un po' più serie. serie. Sempre se rimanendo, questa sera rimaniamo un po' su Microsoft senza fare nomi, così qualcuno non mi accusa di parlare solo di Apple. Tanto qualcuno che ascolterà sarà chi è preso in considerazione. Poi dopo fuori onda ti dirò chi è. Ok. Sempre Microsoft. Hai visto, letto, sentito, ascoltato la notizia che Microsoft si pensa per il 2013 voglia fare uno smartphone tutto suo. Non solo avere il sistema operativo, quindi Windows Phone, ma avere direttamente uno smartphone tutto suo. Sì. Come più la vedi una mossa azzardata, nel senso buttarsi in un monopolio che ormai è Samsung Apple, ormai telefoni Samsung Apple, perché tanto Sì, sono alla grosso fin fine. modo Poi sì. ci sono anche HTC, altre cose, però ormai se guardi il mercato sembra chiuso a loro due, ce lo stanno gestendo come gli pare e fanno come Sì. gli pare. Lo vedi una cosa molto azzardata oppure una cosa fa fatta bene? Per quanto mi riguarda, ti posso dire molto azzardata, però come ditta Microsoft, come cliente utente, secondo me un po' di concorrenza per Apple e Samsung Fa solo non bene. fa bravo, fa solo bene, perché sembra che ultimamente si siano un po' Adagiati. bravo, adagiate, hanno i suoi uno o due prodottini e lavorano su quelli, tac tac e basta. Ma diciamo che Microsoft sta cercando, a mio avviso, in ritardo di recuperare terreno. Sono in un ritardo mostruoso sul fronte mobile. Adesso con Windows 8 mobile sembra che forse riusciranno a recuperare qualche fetta di mercato. Comunque sia, sono in un ritardo allucinante. La mossa di farsi uno smartphone, diciamo proprietario, chiamiamo così, cioè tutto suo anche dal punto di vista hardware, ma può essere vista in due modi. Il primo modo è nessuno si è fiondato Windows 8 dei produttori, proprio perché Eh c'è sì. questa specie, c'è questo dualismo, questo duopolio Samsung Apple, quindi nessuno si è fiondato Windows 8. Ma anche perché secondo me ora i più tecnici conoscono un po' tutto, Certo. Apple, quelli magari un pochino più non proprio dentro, magari Windows 8, se gli dici Windows 8, Windows Phone, scusate, magari pensano che sia, no no, il computer, io c'ho Windows, capito? Magari neanche sanno che esiste un sistema operativo mobile di Microsoft. Sì, certo, molti magari non lo sanno, se non sono gli addetti ai lavori. Sì, infatti, anche perché ultimamente io penso che sia solo Nokia che monti No, c'è in giro Windows anche qualche Phone. HTC. E C'è comunque in giro anche qualche HTC, ho visto. sempre le voci che comunque non preclude il contratto con Samsung che dovrebbe avere e No, Nokia perché mi comunque. sembra che non abbiano fatto un contratto in esclusiva. Hanno No, no, no. fatto un contratto in esclusiva per il modello, non in esclusiva per la casa produttrice. Quindi non penso che abbiano problemi di nessun tipo e genere. No, no, no, quindi io, secondo me a livello di concorrenza non fa altro che bene. Sì, sicuramente. Come io vorrei vedere tornare in auge per me la grande Nokia. Io Nokia No, vederla laggiù, Nokia. io vederla laggiù mi piange il cuore veramente. Che tu, come si disse nella prima puntata, tutti siamo cresciuti con un cellulare Nokia, mi Ah, piange il sì, cuore. certo. E ho letto fuori scaletta, questa te la dico oggi, guardavo, che gira le voci sempre che Apple potrebbe acquisire Nokia. Potrebbe. Ma Nokia però, se non mi ricordo male, è già in accordi in questa direzione con Microsoft. Non vorrei dire una castroneria, attenzione, perché è già da un po' di tempo che si parla. Già adesso Nokia innanzitutto ha una partnership con Microsoft, è già un po' che girano rumors. No, più che dicono, cioè sono delle domande che si stanno ponendo, nel senso se conviene per Apple acquisire Nokia. Poi Secondo sai, me no, dalle voci. secondo me no, non gli conviene. Non gli conviene assolutamente, anzi gli converrebbe, come si chiama? Gli conviene continuare così come sono. Sì, anche perché sembrerebbe quasi un'acquisizione per troncare. Forzata, Sì, esatto, per troncare, bisognerebbe. comincia, prendo te e comincio a chiudere tutti. i vari concorrenti. No, infatti, io la Quindi vedo secondo te la vedi un po' azzardata? Sì, indietro è rimasto indietro, parecchio indietro molto, molto indietro. rispetto a Samsung e Apple. Stanno cercando di recuperare. Dal punto di vista dello sviluppo, ti posso dire che per gli sviluppatori stanno offrendo dei toolkit, e degli IDE di sviluppo per Windows 8 Mobile decisamente avanzati. Io, come se lo sai, io sono super partes, io sono un utente Android, però se devo parlare da sviluppatore, oggettivamente l'ambiente di sviluppo per sviluppare per Windows 8 è forse il migliore che c'è tra i tre. Te l'hai provato Windows Sì, Phone? Io sì. l'ho provato su un telefono di un cliente e per quanto mi riguarda lo vedo parecchio macchinoso. Cioè tutte quelle... che poi è quasi tutto interfaccia metro, sembra Sì, tutta... certo, tutto con le tile. Non so se mi piacerebbe... L'ho È molto provato e non lo particolare. vedo un po' macchinoso, sinceramente. Non lo vedo proprio... diciamo usabile, lo prendi, accendi, via. Lo vedo più un pochino Ma più sai, si macchinoso. diceva la stessa cosa per assurdo, io l'avevo letta un po' di retroinformatica quando era uscito il mouse. Sì, Cioè, che si diceva, no, era macchinoso, faccio prima a scrivere il comando piuttosto che andare lì a cercare l'icona uguale, no? Per cui alla fine della fiera non lo so questo, bisognerebbe provare con un uso di qualche giorno. Io bravo, potrei sì, provarlo per una effettivamente sì. mezz'ora più o meno. E poi vabbè, ho l'ambiente di sviluppo con chiamiamola la virtual machine, quindi il telefono virtuale Sì, dentro sì, un sì. Le computer sul quale fai girare le applicazioni per vedere applicazioni. la resa grafica, eccetera, eccetera. Però Quindi ti... A non come livello utente, indizi. secondo me, io spero che venga qualcosa di nuovo, dai. Cosa intendi? Qualcosa di nuovo fra Samsung e Apple, che è l'unica che tiene il passo un pochino dopo loro, secondo me, è HTC, poi, ma anche loro stanno arrancando veramente per stare dietro Ma a sai, queste arrivati a un nuove. certo punto penso che le idee innovative si esauriscano. Quindi di sicuro non ci può essere una continua crescita, di sicuro c'è una curva, no? C'è una crescita più Certo. rapida all'inizio per poi arrivare asintoticamente a stabilizzarsi. Secondo me cominciamo a essere nella fase di crescita meno spinta di questa curva asintotica, quindi necessariamente ci dovrà essere un rallentamento. Certo. Adesso vediamo se Microsoft non riesce magari appunto con le tile, che è una cosa che ha solo lei per il momento, Eh sì. magari a non dare un'altra scossa al mercato, Che si è perché rinvenuta un po' tardino, secondo no? Questo me. Ci sicuramente. pensavo magari Hanno 2 o 3 anni sottovalutato il prima. discorso mobile. No, no, lo hanno proprio sottovalutato loro. Eh sì, non hanno o sottovalutato o non ci sono voluti entrare proprio per partito preso perché magari hanno due cose che li portano avanti, che è chiaro, il sistema operativo Windows e l'Xbox, Ah beh, sì, che sono le cose più che tirano. Poi i vari sistemi Microsoft, ovviamente, che anche certo. lì ci sarebbe poi Aprire una parentesi lunga, bravo, bravo, sì, bravo. Vabbè, certo. staremo a vedere. E ora si va... Mi volevo collegare a, visto che parlavamo di questo qui, di Microsoft, che tu hai detto anche l'Xbox, in un campo non tuo, presumo. In che senso? Come gaming. No, io come gaming Ora, gioco qui non si abbastanza tratta proprio poco, di gaming, premetto. sono Sì, di... certo. Ma io gioco abbastanza poco, perché ho poco tempo. Quando gioco, io ho la Wii, e tendenzialmente gioco a giochi tipo Sparatutto, Call of Sì, Duty, quelle cose lì. Oppure gioco su agguati alla PC. moglie, detto quanto Agguati alla cazzo. moglie, esattamente. Oppure gioco su PC a giochi tipo Diablo. Per Sì. intenderci, quindi parlo di Giochi giochi di di ruolo. ruolo. Esatto, sto giocando una parola grossa perché non ho molto tempo, però ho installato, sono circa un terzo di Diablo 3. Bello. Ma anche lì ora apriamo una parentesi e poi la chiudiamo. Sì. Doveva aver fatto un boom clamoroso, invece dicono che ne ha fatto meno delle aspettative. Ma relativamente, nel senso, Ora io non ho forse mai come volume giocato. di vendita, sì, come indotto da Battle.net, che è la rete dei giocatori della Blizzard, ha fatto più di quello che si aspettavano. Io Perché adesso c'è la non... possibilità di comprare anche item e si parla di soldi reali, insomma, hanno fatto evolvere molto lo schema di gioco. Per quanto concerne Diablo, mi permetto di dire la mia, hanno aspettato troppo a farlo uscire. Hanno fatto un po' un parto, è stato un parto un po' lungo. Ne vale la pena, perché io lo sto giocando e ti devo dire, ha degli effetti grafici allucinanti. Allucinanti, è molto molto bello. Ci hanno messo un po' troppo. Bene, chiudiamo questa parentesi di, diciamo, proprio di gaming proprio puro e ti avevo accennato questa cosa qui dell'Xbox perché si dice che Microsoft abbia in cantiere, magari sicuramente già da tanto, che si presume, si parla della famosissima 720, Xbox 720, per il lancio che dicono possa essere a Natale 2013. E visto che il lancio dovrebbe essere fra un anno quasi, dicono, sempre dicono perché io notizie le prendo e poi noi le commentiamo, che abbia ristretto e fatto delle misure di sicurezza a livello proprio assurdo, nel Cioè, quindi che abbiamo senso, aumentato le misure di sicurezza, sì, dici? proprio addirittura dice che tutti i dipendenti possono essere sottoposti scelti a caso a delle perquisizioni e dei controlli personali, perché non esca niente della nuova console. Addirittura le aree comuni comuni accessibili, diciamo, dell'azienda Microsoft, non saranno preclusi alcune aree ai dipendenti di basso livello, di profilo. Ora, non so come sono, diciamo, i livelli dei dipendenti Microsoft, ma quelli con basso livello non potranno accedere a determinate aree. E addirittura i visitatori, questo per concludere il controllo, saranno contati, nel senso non sarà più allo stato brado e saranno, quando si gireranno per l'azienda Microsoft, tutti scortati per tutto il periodo della visita. Qui tutto per bloccare eventuali fughe di informazioni, foto e quant'altro, perché collegando questo anche al fatto, tanto per tornare sempre ai soliti discorsi, l'ultimo iPhone, che si sapeva già tutto, Sì, secondo certo. me. Ora, allora, escluso le perquisizioni fisiche, secondo me Microsoft fa bene a fare una cosa del genere, Sì, secondo me, sì. perché ora, qualche rumorino secondo me ci vuole, qualche indizio, però non sapere già quello come la 720 o qualche altro, in questo caso parliamo della 720, come sarà già. Cioè, il bello è qualche notiziola, ma frammentata, quindi può essere, non può essere, sarà, non sarà. Certo, cioè creare Se un minimo di attesa, un minimo di bravo, hype, ma senza bravo, esagerare. quel vedo non vedo, diciamo, Sì. che te potrebbe essere e non potrebbe essere. Cioè, l'attesa sarebbe ancora più bella e secondo me la presentazione sarebbe seguita da tutti ancora più Beh, con certo, passione. Secondo me se la si non. gioca bene, si può benissimo arrivare a creare un hype molto forte da parte dell'utenza, che comunque non è assolutamente da sottovalutare, perché di 360 ce n'è in giro tantissime, e si potrebbe anche arrivare a forse aumentare quella che è le prospettive di vendita. Quindi Certo, a me certo. piace come idea di questa, diciamo, segretezza un po' più Sì, un chiamiamola spinta. segretezza, perché se Sì. veramente vanno ai controlli fisici, insomma, siamo un po' forse oltre, però secondo me io fossi CEO il CEO della Microsoft, io sinceramente farei così. Cioè, niente No, deve certo, uscire, deve niente. uscire solo quello che vogliamo noi, Bravo. mettiamolo in questo modo. Bravo, Quello che per vogliamo dare che il là esca, per esce, bravo. altrimenti no, niente, non se ne parla neanche, Bravo, certo. per dare il là alle discussioni, ai rumor che poi sono quelli, perché ora niente, niente, no, perché poi non ne parlerebbe nessuno. Ma il dare il là per quelle piccole informazioni lo decidiamo noi chi è, no? Te Certo. dipendenti o te chi è. Chi sia un po' uno evitare, chiamiamoci chiaro, lo spionaggio industriale poi alla fine, E perché beh, è poi chiaro, perché quello comunque sia c'è. certo, è bello anche questo corrimi dietro di informazioni, vero, non vero, finto. Secondo me aumenta anche l'attesa e si fa più interessante, secondo me. Certo, sicuramente. Beh, anche perché altrimenti non avrebbe senso sviluppare a porte chiuse, no? Certo. E secondo me. E poi chiudiamo qui questa parentesi. poi apro e chiudo, doveva, come Apple doveva fare con l'iPhone 5, secondo me. Secondo me hanno esagerato. E chiudiamo. Quindi anche te lo vedi un'esagerazione, sapere tutto prima. Perché... sì, qualcosa giusto che si sappia, perché devi comunque creare hype, è una questione di marketing. Tutto no, non lo trovo, perché alla fine poi la presentazione non è nient'altro con una conferma di quello che già sì. Si sapeva. Sì. Che è passato Valentino Rossi da te? Sì, è passata una moto sotto la finestra del mio studio. E quindi niente, anche secondo me io la penso come te. Qualche informazione sì, ma troppo finisce. Secondo me il bello della poi presentazione vera che tutti si aspettano, il classico oggetto coperto dal telo, come le famose presentazioni delle Formule 1, la Formula 1 di anno in anno, il classico telo è tolto e così tutti sanno già tutto, è quasi una cosa non inutile ma in più, sì, secondo me non serve a poco. Lascia un po' il tempo che trova, ecco, anche secondo me. Quindi siamo d'accordo su questa. Sì, sicuramente, guarda. Bene, altre notizie? Cosa mi dici? Ma seguendo un momentino quello che abbiamo buttato giù, mi viene da dire, tornando... Che ne volevamo parlare di questo. Esatto, cose. Che è un po' che anche noi due se ne parla, diciamo... Fuori onda. Internos, sì, esatto, sì, nei sì. Nostri fuori onda. Ma diciamo più che altro la guerra, perché di me... Secondo me guerra trattasi tra Samsung e Apple, perché stanno facendo a botte di denunce uno con l'altra. Io denuncio te, tu denunci me, io ti porto in tribunale perché hai fatto il bottone rotondo, io perché hai fatto l'icona quadrata, io perché allora rilancio dicendo che i due telefoni si assomigliano. Cioè stanno facendo la guerra più che con le innovazioni sul piano tecnologico, con le cause. Sì, bravo. E sinceramente... Per quanto mi riguarda, come utente Apple, Samsung, quel che sia, hanno veramente rotto le scatole. Veramente. Sì. Le vuoi fare, farle da internos, se in silenzio denunci e fai quello che ti pare. Ora non si legge altro che... Cioè l'iPhone 5 è uscito e c'è già Samsung dietro che denuncia Apple. È uscito l'S3, c'era già Apple dietro che denunciava Samsung per violazione dei brevetti. Sì. È una cosa veramente, almeno me come stanno esagerando, cioè invece di farsi la guerra con le innovazioni, cioè bravo. Io propongo qualcosa di più bello del tuo, di più innovativo, di più sui generis, si fanno la guerra con le cause. Io lo interpreto proprio come un, visto e considerato che fondamentalmente sul piano tecnico siamo molto molto equivalenti, allora dato che non ti posso battere, diciamo rubare fette di mercato con innovazioni sul piano tecnico, cerco di bloccarti le vendite, cerco di bloccarti gli sviluppi, perché se sei impegnato in cause e vieni dichiarato colpevole devi risarcire l'altra parte, quindi devi necessariamente hai delle uscite di cassa che non puoi mettere negli sviluppi. Cioè si stanno facendo la guerra in questo modo. Infatti, che secondo me per quanto mi riguarda è stucchevole veramente. Ora ci sta una denuncia, una querela, sì, basta, ma ora cioè te guarda l'ultima, Samsung non aspettava altro che uscisse l'iPhone 5. Sì, sembravano proprio lì aspettarli al varco. Sì. Sembravano proprio lì aspettarli al varco. Sì, io non difendo né una né l'altra, perché Samsung, se si torna ai vecchi, al primo Galaxy era identico all'iPhone. Però veramente Apple, io mi sono ho girato un attimino quando ho fatto la scaletta, così ha brevettato, cioè tu cose che secondo me non andrebbero neanche l'ufficio brevetti doveva vietare, cioè. Ma sì, perché come ti ho già accennato, io allora questa stregua da Magnettina vado all'ufficio brevetti, brevetto la ruota e bravo. Poi faccio causa alla Fiat, alla bravo. Mercedes, perché bravo. Stanno usando la ruota. Secondo me ci sono cose che sono, passatemi il termine, imbrevettabili, nel senso è come per fare lo zoom, il pinch to zoom. Cioè, te mi brevetti una cosa, io se non ho tasti fisici, come lo faccio lo zoom? Infatti, cioè è l'unica mossa logica che mi viene anche a me da fare. È quasi, io faccio un qualsiasi brevetto non perché è mio, sembra quasi, l'ho inventato, quasi perché se io lo brevetto e te lo puoi utilizzare, il telefono è limitato o non lo fai, perché No, certo. cioè, Ma non... vedi, è proprio questo il discorso, no? Cioè loro vogliono limitare le possibilità degli altri, in modo tale che se loro brevettano il pinch to zoom, nell'istante in cui anche si trovi una modalità, diciamo, per fare lo zoom alternativa, non coperta da questo brevetto, comunque oggettivamente quella più intuitiva per l'essere umano è il pinch to zoom, per cui potrebbe partire una campagna pubblicitaria del tipo: però noi abbiamo il pinch to zoom più intuitivo, il nostro è più intuitivo da usare. È lì che stanno continuando a battere, secondo me. Sì, però è... capisci che è una cosa veramente noiosa da leggere, secondo me. Ma è In noiosa giro, per, mi si cioè... passi il termine, noi che siamo addetti ai lavori, non oso immaginare per un utente finale, Io dici, penso ma com'è che che... mi frega di tutta sta roba? Bravo. Io penso che all'inizio anche io l'ho letto e te li hai letti, l'hanno letto tutti, Samsung contro Apple. Alla fine quando apri un blog, che sia se segui un blog, che sia qualsiasi tipo di blog su Android, su Apple... Samsung, ma io sinceramente non leggo neanche, cioè non mi metto neanche più a approfondire, non mi interessa neanche più, cioè, Certo. perché tutto un query, te hai fatto la rete LTE, te hai fatto il pinch to zoom, te c'è questo Sì, che è il cioè mio, si stanno perché come si non chiama? esiste più, Scannando per. bravo, non esiste più il classico, il mio è più lungo del tuo, cioè sembra quasi, ma il tuo è lungo come il mio e non lo puoi fare, Sì, cioè esatto. stupiscimi, te, io come avevo scritto nel mio vecchio blog, te, ute, mi, ma Apple, Samsung, Microsoft che sia, uguale che non c'entra niente, ma ci mettiamo anche quella. Mi devi stupire, me utente, non mi devi dire, Certo. ma te l'hai fatto così, oppure quando fanno le pubblicità comparative, Sì. cioè questo l'iPhone fa così, ma il mio lo fa così. Cioè, te devi esaltare il tuo, no? Denigrare l'altro. Fammi vedere quello che fa il tuo, capito? Sì, No, beh, no, la quello pubblicità non lo fa. comparativa ci sta anche, Ma nella comparativa, misura in ma cui esalti le tue sì, caratteristiche. ecco, questo, no, io intendo questo, comparativa nel senso, quello non lo fa, no, non dire quello non, te dimmi cosa fa il tuo, poi io utente lo valuto da me se quello non lo fa, o Ah no, certo, io se lo fa guardo meglio o e. peggio, te, Certo. cioè, decanta Le tue le tue caratteristiche. caratteristiche, bravo, Certo. non dare contro all'altro, che secondo me diventa anche una cosa... Noiosa a sentirsi per quanto mi riguarda. Poi magari qualcuno ci campa e gli piace queste cose, però secondo me è sempre Ma io questo. Cioè, le trovo stucchevoli, come giustamente dicevi tu, cioè non è stupiscimi. possibile. Cioè, stupiscimi. Fammi qualcosa, non lo so, come qualsiasi cosa, ma stupiscimi. Sì, inventati qualcosa, fai qualcosa che mi faccia fare Capito? cosa che non No. stanno facendo. Adesso si stanno facendo la guerra a brevetti per togliere le caratteristiche agli Bravo. altri, poter dire io ce l'ho, gli altri no. Bravo, ora Apple sarà in attesa dell'S4, se uscirà, se si chiamerà così, sicuramente vedrai. Sì, partirà la raffica di Oggi è querele il anche in 10 questo ottobre, se non caso, sbaglio. certo. Vedrai, quando uscirà, ricordiamoci che l'abbiamo detto stasera, Apple troverà qualcosa. Hai fatto questo, si denuncia perché il tastino è più Facciamo un lungo po' le del... Cassandra della Sì, situazione. no, sono alle cassate della situazione, chiamiamola. Sì. Perché veramente... È stucchevole, ma secondo me è stucchevole. Da bambini, ma io te hai fatto così, allora io ti appena esci hai visto, Sì, io non sono ti più tuo denuncio. amico, No, certo. bravo, no. E tutto No, è non ha senso nato, questa cosa. tutto secondo me è nato da Apple, questa cosa. Non è nata da Samsung, secondo me questo. Ora, lasciamo perdere il primo, il Galaxy, che è veramente la copia indegna indegna nel senso, no, come fattura, nel senso è proprio è uguale, se lo guardi poi alla fine è uguale. Sono molto simili, Sì. certo, però come dire, io qua, ecco, mettiamolo in questo modo, fatico ad aspettarmi delle differenze. Sì, però Cioè, a vedi, ti questa faccio. stregua anche le macchine, no? Sono tutte Certo, uguali, però c'hanno quattro ruote, hanno un volante, hanno io un ti faccio un freno, una esempio frizione. Cioè. banalissimo di questo qui. Era a cena con i vicini, c'era uno davanti a casa mia che ha sia il primo Galaxy che l'iPhone, il 3GS. Erano sul tavolino, un'altra ragazza ha preso il Galaxy e ha detto: mi fai vedere l'iPhone. Quindi capisci che Sì, quando... Ora, proprio io lo vedo, li ha te lo vedi. Bravo, scambiato. quando un utente medio scambia... Ora, l'iPhone 5 o 4 non lo cambi per il Galaxy S3. Invece lì mi sembra proprio voluta. Poi sembra quasi, mi faccio pubblicità, vabbè, spendo di più a pagare Apple, però intanto mi faccio pubblicità, entro nel giro. E questo, vabbè, può anche Ci può passare. anche Però, stare, sì, certo. secondo me tutto è partito da Apple. Sì, perché da quello che ricordo anch'io, poi magari posso, mi sbaglio, cioè la prima che ha cominciato a fare queste cause è stata proprio Apple. Sì, diciamo che la prima è stata mi sono documentato, la Creative Technology che fece causa a Apple. Questa non me la ricordo io, Sì. illuminami. Praticamente, com'è andata? Che diciamo, la Creative Technology, che era una ditta produttrice, diciamo, di componenti elettronici, fece la querela a Apple per violazione di brevetti relativa a alcune tecnologie usate sul primo iPod. E da una sentenza risultò che aveva ragione la Creative. Ah, Quindi a ecco. questo punto Apple erano stati violati dei brevetti. Quindi a quel punto o pagava o rinunciava, e quindi Apple pagò. E a quel Certo. momento ci fu Steve Jobs che disse: da oggi vi prometto e vi prometto Brevettiamo che tutto. brevetteremo qualsiasi cosa. Ho capito, però cum grano salis, come dicevano i latini, perché non si può brevettare appunto un fattore forma di un cellulare, perché Lì, sennò. oddio, lì però non è colpa di Apple, se vogliamo. Lì secondo me ci dovrebbero essere degli standard che, certo, io brevetto, come hai detto, della ruota. Se me la brevettano, non è un problema mio. Parla con l'ufficio brevetti che me l'ha brevettata. È un discorso, secondo me. Molto borderline. Ora, io non sono un esperto di diritto No, neanche io, informatico. sinceramente, non so non so se vengono accettati tutti, non so su che base No, no, vengono questo fatte. sicuramente, questo so per certo sicuramente no. Non so su che base vengono fatte, però risulta che Però Apple. io quello che dico è un'altra cosa, a prescindere dall'accettazione, anche tu azienda che vai a brevettarmi il fattore di forma piuttosto che il pinch to zoom, fatti, virgolette, un esame di coscienza e dire ma io una roba del genere non la posso brevettare. Cioè, Fai certo. veramente la figura di quello che vuole spezzare le gambe alla concorrenza. Certo, poi si dice che Apple abbia 4.100 brevetti. Cioè, se ti rendi conto quanti Sì, sono sono un'enormità. 4.100 brevetti? Cioè, hanno brevettato anche, non lo so, le vitine che stringono l'iMac o l'iPhone. Cioè, non Probabile. so, sono tanti. Molto, molto probabile questa stregua. Infatti, come hai detto te, ti do questa notizia, da ben ragione, che l'anno scorso Apple ha speso più in gestione brevetti che in ricerca e sviluppo. Vedi? Per E cui io non è questo premetto bello. che non lo sapevo, ci sono arrivato per buon senso. Non fa una bella pubblicità, no? No, Sapere pessima. che hai speso più in bloccare La gli altri. concorrenza piuttosto che Bravo, sviluppare il tuo bravo, prodotto, no? bravo. Secondo me la figura complessiva che ne esce è pessima. Certo, perché te, più che stupire l'utente con ricerca e sviluppo, ti preoccupi di bloccare le altre aziende che non facciano niente. Cioè, invece di sviluppare un qualcosa di nuovo o di qualcosa che già c'è, ma lo vuoi fare un Vuoi upgrade. migliorare, certo. Mi sembra un po' assurdo, no? Non ti pare? Ma sicuramente, ripeto, riagganciandomi al discorso di prima, capisco che la curva di sviluppo e di innovazione sia nella fase, diciamo, di assestamento, di avvicinamento a quello che sa che può essere un massimo, però di sicuro i margini di miglioramento sulle tecnologie attuali ci sono e sono visibili. Per cui prima di cominciare a scannarsi con brevetti e compagnia bella, migliorate i prodotti, poi vi scannate quanto volete. Eh sì, infatti, cioè, scannati sulle cose che hai presentato, non sui brevetti. O quello, come ho detto prima, se lo vuoi fare, fallo, ma fatelo in silenzio. Cioè, sicuramente tanti utenti, Apple e Samsung, si stanno stancando di questa cosa. Sì, sicuramente. Io in primis, nel senso che anche adesso quando nel feed RSS mi scorre la notizia dell'ennesima causa, mi ritrovo a pensare ancora. No, ma Sì, non è no, quella della infatti. settimana scorsa? No, è un'altra. Sì, no, Orca. infatti non sai neanche più se leggi la solita notizia, magari c'hai 3 o 4 RSS su vari blog. Non sai se leggi la solita, se è un'altra Se è un'altra nuova. causa, esatto. Sì, non, boh. Io personalmente sono abbastanza stufo, cioè che si dedichino piuttosto davvero a fare innovazione e non a scannarsi per queste cose, anche perché non hanno senso. Stanno diventando non più aziende. Cioè, ormai cercano di preservare quello che hanno. Sì, vogliono salvaguardare lo status quo raggiunto. È l'unico modo, o quantomeno il modo più rapido che hanno trovato per farlo, è bloccare la Sì, concorrenza, sì, sì. proprio con questa faccenda dei brevetti. Non sembra che non stiano cercando cose da far uscire. Cioè, No. tanto m'adagio così, io blocco e te non fai uscire le tue perché io ho fatto così. Entrambe, Apple, tanto le case di risparmio sono Sì, loro cioè qua due. è a prescindere dalla. Sono loro due. Una volta ho visto, era toccata anche HTC, ma io non so neanche se ditte come HTC, Nokia sarebbero in grado di tenere il passo con una battaglia legale con Samsung o No, di Apple. sicuro sarebbero in grado di tenere il passo perché non stiamo parlando di aziende piccole, però evidentemente non gli interessa. O non gli merita, magari preferiscono spendere quelle cifre in ricerca e sviluppo. Esatto, che forse è la cosa migliore da fare. Anche secondo me. E uscire con un prodotto innovativo che la concorrenza la blocca, ma la blocca nel modo giusto. Cioè, per il fatto che gli utenti vengono a comprare da te. Questo è il Certamente. modo di bloccare la concorrenza. Bravo, vendendo di più io, no bloccando, vendendo meno il tuo. Esatto, vendo di più io, l'utenza si sposta su di me perché dice questo prodotto è sensibilmente migliore, vado da questa parte. Cioè, l'utenza te la devi conquistare, non la Certo. devi rubare agli altri impedendogli di fare, cioè, no, è perversione Sì, secondo sì, me. sì, sì. E poi oggi che sia l'utente geek, che sia l'utente medio, l'utente o l'utente base, oggi si aspettano tanti delle novità da un device nuovo, secondo Beh, sì, certo, cioè, me. Ci si aspettano quel che in più che lo fa, come hai detto te, che fa, oh, Esatto, cioè, mi fa dire, oh, proprio lascia così. lì, esatto. Sì, Bene. Anche sicuramente. questa ce l'abbiamo girato un po' intorno, ma ce l'abbiamo affrontata, dai. E Certo. l'altro video, io l'ho letto, prima l'ho letto su, mi sembra sulla Repubblica, non mi ricordo, per caso ci sono Può essere, andato, sì. per qualche notiziola tecnologica la Repubblica le dà, e mi sono trovato a questa, io girando, leggendo, questa mega rissa da 400 persone, lì per lì sono rimasto un po' basito, perché insomma, una rissa da 400 persone, allora, o è un concerto degenerato, Certo. o è una partita di calcio, perché 400 persone la Sì, vedo un anche perché po' ormai che le si partite di trovino calcio sono 400 delle risse, persone. quindi. Come? Ho detto che ormai le partite di calcio sono delle risse, quindi. Sì, no, vabbè, lasciamo Lasciamo perdere. perdere, Lasciamo esatto. perdere. No, no, ma io lasciamo perdere perché io amo il calcio, te no, quindi basta, No. finiamola qui. E leggendo questa maxi rissa a Roma, poi non è anche uno dice Stati Uniti, come è successo pochi giorni fa a quel matrimonio, anche Sì. qui che se le sono date di santa ragione. E poi c'è anche morto uno di infarto. Comunque, vabbè, chiudiamo la Tanto parentesi. bene. E ho letto questa mega rissa. Allora, ho detto, approfondiamo, ho detto che è successo. Cioè, 400, che cosa è successo? Praticamente, si dice che si siano dati tra. Si siano dati utenti Facebook, più che altro Facebook e Twitter, appuntamento proprio in quella piazza, non mi ricordo che piazza è di Roma. Loro dicono per un flash Piazza mob. Cavour, mi pare. Sì, ora magari si guarda. Loro dicono per un flash mob, però abitanti e gestori di locali pubblici dicono che non è la prima volta e non è un flash mob, ma dicono si danno appuntamento per divertirsi, si mettono d'accordo con ubriachi, alcol, qualcuno porta di tutto. Poi fanno proprio tipo un gioco online, praticamente. Danno uno schema con le armi permesse. Cioè, poi si trovano tutti insieme e, come si dice a Luca, botte da orbi. Loro l'hanno voluto far passare come flash mob, però, ti ripeto, le testimonianze dicono non era un flash mob, è volato di tutto. Capito, però erano d'accordo. Sì, ma ti E rendi conto gustibus che et coloribus, non disputandum se est, cioè mi si passi la locuzione latina, cioè se si certo. divertono così, buon divertimento. Sì, però mi sembra un po' una cosa assurda. Potrebbe non cioè, questi social network che io amo perché insomma è pane quotidiano, Facebook, Ah beh, Twitter, eccetera. certo, per tutti. Non è che potrebbero o sono già scappati di mano. Cioè, questo è un piccolo esempio di riescono in poco tempo a radunarsi 400 persone nel giro di poco, trovarsi e fare una mega rissa. Ma questo qua diciamo che rientra nel solito discorso che faccio io, cioè Piazza Cavour, vero? non è il mezzo in sé che è buono o cattivo, è l'uso che se ne fa. Io posso comprare, che ne so, cioè, mi sto guardando qui sulla scrivania, ecco, ho qui un cacciavite sulla scrivania, finché lo uso per piantare, per avvitare le viti è un uso buono, se te lo piantano nella giugulare è un uso cattivo. Allora Senz'altro, questa stregua, senz'altro. se domani mattina io svalvolo e ammazzo due persone a cacciavitate, cosa facciamo? Chiudiamo le ferramenta? No, no, quello è perfettamente ragione, però diciamo se potevo organizzarla anche prima, perché le risse, insomma, chiamiamole, sono sempre estate, però Esatto. qui da un mese, qui in mezza giornata si organizza. Questa è una rissa, è una bravata, una cavolata. Però non lo vedi una cosa un po' da tenere più sotto controllo, cioè che un organo tenga un pochino più sotto No, perché controllo. comunque sia l'unico modo per tenere sotto controllo una roba del genere sarebbe, ad esempio, monitorare tutta quella che è la posta personale delle persone. No, ora ti ho dato un esempio, non so in che maniera potrebbero farlo. Ma lo trovo da una parte difficilmente controllabile e dall'altra, ripeto, si colpevolizza il mezzo per l'uso, come si può dire, non corretto che ne fanno, e qua a costo di passare per Borgare, perché ne fanno 400 imbecilli. Sì. Cioè, il mezzo in sé No, non ma ora è. il mio era per arrivare. La rissa in sé per sapere come la pensi, se questi social network, ora evitando l'uso quotidiano, possono essere un bene, ho visto, diciamo, con lunghe vedute, o un male. Ma i social network, secondo me, ripeto, non sono né cattivi né malevoli. Dipende Sì, dall'uso chiaro, che come se lo. ne fa, Certo, cioè certo. semplicemente questo, non vedo Sì, altre. però mettiamola così, allora, il fatto del social network poco controllabile, poco individuabile, No, beh, può l'individualismo. scaturire e aiuta chi vuol fare del casino, diciamolo così, e sapendo che sei meno controllato, oppure è una cosa che verrebbe fatta comunque, oppure questo incide un po' su queste cose. No, secondo me non incide minimamente, perché chi vuol far casino trova il modo di farlo a prescindere dal social network di turno della situazione. Lo trova a prescindere il modo di farlo. Che poi il social network possa essere usato per organizzarsi più rapidamente, vero. Però, ripeto, non è cattivo in sé, non ha senso colpevolizzare il social network e anche il voler No, no, ma io non è che monitorare. sto colpevolizzando, No, io ho detto certo. sapere se questo, diciamo, velocità di contatti fra, anche addirittura fra l'estero, cioè, prima c'è sempre stata l'email, così però è botta e risposta, è una cosa immediata, può essere Ma anche tramite email alla fine botta e risposta. Cioè, per chi lavora davanti a un computer, ormai la mail è diventata la stregua sì. di un instant messaging. Quindi, Senz'altro. allora, Però è se gli più togliamo Facebook. l'email è più io te. No, assolutamente, perché io mando una mail a 500 Sì, persone. però devi sapere la mail. Su un social network basta che tu metta, ad esempio, una pagina su Facebook e chiunque la può vedere. Si può iscrivere e può partecipare. Ora, era per capire ci vuole un organo, ne neanche un organo di controllo, un qualcosa in più per limitare queste cose. Perché qui siamo passati alla rissa, ma qui si potrebbe diventare a qualcosa di più grosso. No, no, è Non è che io la altamente. penso così, era per sapere Certo, come. sì, è un'ipotesi, ma è anche difficile mettere un controllo, no? Perché per poter fare un controllo vorrebbe dire entrare nel merito per assurdo di quelle che sono le comunicazioni personali, i messaggi che io e te ci mandiamo per organizzare la scaletta, non Certo, vedo certo. perché debbano interessare a organi terzi. Per No, ma su cui quello sono non. d'accordo. Come girava, ora poi guardavo qui, dicevo che era una bufala. che Facebook si diceva che avrebbe chiesto, non so da quando, non so come, un documento d'identità per poter aprire un account. Come Ma il l'abbiamo documento vista d'identità questa? innanzitutto deve essere digitale, perché la scansione del documento di identità lascia il tempo che trova. Il Photoshop ce l'hanno tutti, è un attimo cambiare Senz'altro, lì, quindi. senz'altro. Io però, ecco, questa la vedo una cosa secondo me non proprio sbagliata, perché poi che io mi registri col nome di Geek Reflection, come ho fatto su No, Gmail, certo, però qui non è comunque un problema. Bravo. sia puoi risalire a una persona reale. Poi che Alberto Armida si faccia conoscere come Albea, non si sa chi è, non lo so, a me non mi deve interessare, ma secondo me chi fa capo al social network deve sapere chi è Albea, cioè a chi corrisponde, lo so io e basta, non lo devo pubblicizzare, ma io so chi è. Certo. So, succede qualcosa, io perché ultimamente poi ti dirò quella cosa che ti volevo dire, ne succede di tutti, perché basta c'è la televisione, ne succede di tutti. Secondo me un organo, una cosa del genere, che io so comunque poi a chi risalire, secondo me non è sbagliato. Sì, no, Secondo me. questo Poi che lo per sappia chi non ha solo. niente da nascondere non è assolutamente un problema, tant'è che io sui vari social network, eccetera, Bravo. sono più nome e cognome, non ho niente da nascondere, sono una persona trasparente, quindi non, Bravo. se anche la gente sa come mi chiamo, non Non è c'è un nessun problema. Ma problema, anzi, cioè, ma poi, paradossalmente, comunque, anche guarda, la io ti gente non lo posso. sappia. L'importante è Sì. che lo sappia chi è. Succede qualcosa, io so chi è questo. Ah, Bene, certo. sappiamo chi è. Io faccio. È come i telefoni, i numeri. I numeri sono intestati a una persona fisica Sono fisica. Certo. con un documento di identità. Quindi, se io faccio una telefonata che sia un qualsiasi tipo di cosa che non va contro la legge, e parte dalla chiamata da quel numero, sanno a chi risalire. Certo. Secondo me potrebbe essere una cosa da fare, valida, secondo me. Perché io, premetto, io che, non, che social network li uso per divertimento, per lavoro, per divertirmi, per qualsiasi cosa, non ho problemi a darla. Cioè, bella carta d'identità, che mi frega. No, certo, non mi creerebbe nessun problema, però Te. ripeto, devono rendere questo processo smart con un processo, una gestione elettronica della carta d'identità, Certo, perché se devo poi. No, inviarti il fax con la carta no, no, no, d'identità no, quello poi ci tu non vorrà ci uno. arrivi, no? Andrà fatto poi un sistema che potrà garantire la veridicità dei dati, quello è chiaro, perché oggi si fa presto anche a falsificare tutto. Però non la vedo una cosa proprio sbagliata, secondo No, assolutamente, io sarei favorevole. me. Cioè, so a chi risalire. Se quell'utente fa una cosa, te guarda. Cosa più palese, la pedofilia, qualsiasi cosa. Ad esempio, Io so certo. a chi andare a cercare. E non mi puoi dire no, ma io no, l'account è registrato a nome tuo con il tuo documento d'identità. Sì, poi lì si apre tutta la problematica del fatto che devi dimostrare che non c'è stato un furto di identità. Ovvio, certamente. Quindi anche Però questo non è se te non sai facile. chi c'è dietro un account, già non si pone neanche il problema. Sì, questo è vero. Diciamo che si semplificherebbero un pochino le, com'è che si chiama, le pratiche, ecco, Certo, io di avrei già scremato un bel po' di problemi che mi Sì, posso trovare certo. Li davanti. Chi avresti è? ridotti sicuramente. Certo, chi è, chi non è. Insomma, intanto vediamo chi potrebbe essere, poi si fa le indagini del caso. Sì. Questo non colpa del social network, ma colpa No, no, assolutamente, colpa dell'uso dell'uso che uno ne fa, idiota senz'altro. che certe Bravo, bravo, bravo, persone che quando non distribuiti i cervelli hanno marcato visita ne fanno. Che sì. purtroppo è così, c'è cioè un qualcosa nato per buoni, come si può dire, per scopi buoni, Poi qualcuno, certo. ne viene distorto l'uso, Certo, per intenderci. anche Ma se poi non ci. Internet stessa, no, per essere chiari. Come? Internet stessa ha Certo. subito questo processo. Nata per condividere informazioni, è diventata luogo dove pedofili e compagnia cantante trova, diciamo, terra facile, oltre che terreno per altre schifezze del genere. Secondo me un controllo così non sarebbe sbagliato. No, assolutamente, per Senza poi quanto ci andare a sia violare. sempre sulle connessioni, attenzione. Sì, senza quello. Poi si riesce a risalire. Però sai bene che avendo una cosa mirata, io salto un po' tutto. Se non altro abbrevi sicuramente il processo, quello sicuramente. Beh, e senza neanche a ledere, poi andare a ledere la privacy, perché l'account là, quel social network, basta la carta d'identità, che sia carta d'identità o un altro documento. Sì, certo. Ripeto, poi ci sarà da gestire bene il discorso della digitalizzazione di questo documento di identità, gestire gli Sì, eventuali poi anche lì magari furti. poi da buon, di solito dico da buon italiani, ma da buon umano, sicuramente qualcuno utilizzerebbe i dati per pubblicità, eccetera, eccetera. Anche questo bisogna poi vedere a livello di diciamo contratto di accettazione del servizio che fine fanno quei dati, se sono detenuti e utilizzabili solamente a fini giudiziari o piuttosto se vengono utilizzati a fini pubblicitari o peggio ancora ceduti a terze parti. È Eh un po' il certo. motivo per cui quello che pochi sanno è che quando adesso noi dobbiamo firmare quelle famoso documento per la gestione della privacy. L'ultima crocetta che bisogna mettere, le prime due diciamo che sono obbligatorie normalmente per l'erogazione dei servizi, ma l'ultima, che bisogna mettere è buona norma rispondere no, perché è quella per la cessione dei dati a terzi, che Ah sì. non è obbligatoria per l'erogazione dei Certo, servizi. certo. Ecco, per cui Se no bisognerebbe dopo valutare una roba di questo tipo. bombardato. E visto che siamo che andiamo sulla privacy, non so se è un giocattolo, definiamolo così. Non so se hai visto i vari device che si collegano con l'iPhone, cioè le Sì, certo. Ho macchinine, visto che c'è cioè il ci sono coso. addirittura degli elicotteri Bravo. dell'Istan hanno attirato la mia attenzione. E proprio lì infatti te lo volevo portare. Quella ditta che ha fatto la Helicopter, che è quella che praticamente l'elicotterino che comandi con l'iPhone, si è inventata un'altra cosa. E, cioè, è anche bruttina a vedersi. È un insetto giocattolo. Praticamente sono dei scarafaggioni, gioni piccolini, comandabili con l'iPhone. Certo. Ora, anche qui è un giocattolo, no? Però tanto per creare un po' di polemica, non la vedi un po' rischiosa come cosa? Perché Quale motivo, allora, a parte scusa? l'elicottero, prendi l'elicotterino, ti ci diverti, mica per vedere chi è quello che compra lo scarafaggino per mandarlo avanti e indietro, no? Non la vedi una cosa da microspia, da Ma per telecamerina? quale motivo già adesso gli elicotteri radiocomandati, molti sono dotabili di una videocamera che Certo, però trasmette addirittura a terra? se mi permetti, in casa o fuori, un elicotterino lo vedi, uno scarafaggio più piccolino è un pochino più nascosto, una cosa più Si subdola. salta meno all'occhio, Più dici? subdola la vedo una cosa del genere. Poi, No, chiaro che si per noterà comandare. sicuramente la differenza tra quello che è uno scarafaggio reale e quello che è Sì, uno sì, sì. scarafaggio giocattolo. Senz'altro. No, ma io era per collegare, non è che si cominciano a fare diciamo degli apparati per l'utente comune, l'utente medio, normale, degli apparati un po' troppo sofisticati per poter andare a ledere la privacy degli altri. No, no, no, io non, no, non la vedo così, cioè può essere. Anche qui dipende tutto dall'utilizzo che se ne fa. Io ho un elicottero che radiocomandato che è dotato di fotocamera e videocamera Addio, e addio, non lo qui c'è il uso per nome, farmi i cavoli dei vicini, c'è il lo nome, uso. qui sì, Alberto Armida, Certo, quindi ma sì. non c'è nessun problema. Lo uso per fare le riprese aeree mentre Certo. sto volando, lo uso magari per fare delle panoramiche dall'alto. Lo uso per altri 50.000 utilizzi più o meno ludici. Da modellista, ti garantisco che l'avere un fattore di forma del modello o del giocattolo, chiamiamolo in generale, diverso, è fonte di soddisfazione. Cioè io ho un Certo, quadricottero certo. planare che sembra un UFO, ho due elicotteri, e ogni volta deve cambiare forma. Se una persona, poniamo, è appassionata di animali, perché non dargli un insettino volante da far muovere? Non ci vedo niente No, no, di ma era io particolare. per E me. anche l'idea di avere diciamo, visuale in prima persona dal punto di vista dell'insetto è molto carina dal punto di vista del marketing. Ed è Sì, proprio ma parte, anche diciamo, qui, del come piano. dici te, è l'uso che se ne fa. Non è rischioso trovare qualcuno che ne fa un uso non consono della cosa. Poi è chiaro, io lo faccio, poi chi lo usa come lo usa, ma non lo vedi una cosa un po' rischiosa, chiamiamola così. Tipo, lo vedo un po' un insettino alla Minority Report, non so se ti ricordi, il Sì, film no, no, che gli fa ricordo. lo No. screening della retina. No, Allora lì non si lo va, allora lì si andiamo vedo. nell'assurdo, no? Per Sì, carità. ma anche solo, ripeto, il dotarlo di una videocamera. Io, ripeto, ce l'ho il quadricottero con la videocamera sotto e ne ho altre due pronte da essere montate su altri modelli. Non, guarda, un modellista che compra una roba del genere non ci pensa neanche andare a fare, andare a vedere No, no, come si fa la senza. vicina nel box No, no, no, d'amico. Cioè. ma è come lì, è l'uso che uno ne fa, no, per carità di Esatto. Dio. Sì, poi per carità ci sarà il malato di voyeurismo che lo prende per questo. Apposta per spiare Apposta per spiare la le vicina piacente, donnine. però cioè, no, lo vedo proprio come una eventualità da una parte remota e dall'altra che c'è tuttora. Dall'altra che c'è tuttora, perché siamo in giro tutti con cavolo di cellulari dotati di fotocamera, videocamera, eccetera, eccetera. Per cui se si vuol parlare di lesione dalla privacy, cioè al giorno d'oggi è molto, molto delicata, no? Sì, senz'altro, no? Era per sapere Faccio un un attimo. esempio stupido, di una persona, ipotizzo, che possa avere una relazione extraconiugale. Una volta era molto più semplice. Beh, oggi sei rintracciabile Oggi sei ovunque. rintracciabile ovunque, poi ogni persona è in giro praticamente con una macchina fotografica in tasca. Eh sì. Quindi non è poi tanto facile eppure stiamo parlando di semplicemente andare al ristorante. Sì. No, no, la tecnologia da una parte aiuta e da una parte Certo. può essere controproducente la troppa tecnologia. Però Ma sicuramente, ma sicuramente. anche Però lì, come hai detto, questo qua è un dipende. giocattolo, punto. Non Cioè, ripeto no, no, no, era per sapere cosa. come la pensavi su questa cosa. Un semplice giocattolo che sì, si può prestare a qualche utilizzo improprio, diciamo, ma non lo vedo così lesivo o una minaccia Della così. privacy altrui. Bene, Esatto. allora ci abbiamo l'ultimo, questo argomentino che me lo sono lasciato per ultimo, diciamo, l'ho guardato, anche perché l'ho visto oggi, te l'ho mandato su Twitter. Questo, non so se hai visto questo nuovo, chiamiamolo, guanto, apparecchio della Microsoft che sta sviluppando. No, non ho ancora avuto modo di vederlo, nel senso operativo. Ma allora, le gesture sono un qualcosa che già adesso è, come dire, usato e anche in ambito, aziendale, nel Sì. senso che io allo stato attuale, come si chiama? In una sala riunioni in cui bazzico molto spesso, adesso non ho sotto mano il link per poter dire il nome, ho una specie di scatolotto che mi consente di comandare il computer facendo semplicemente delle gesture e comando il computer che è collegato al videoproiettore. Sì. Quindi Ma questo è questo già, diciamo, proprio. nella direzione in cui vuole andare Microsoft, Sì, io ho forse. visto il video, se è reale, non lo so se è stato montato ad hoc, ma è fantastico. Cioè, praticamente è una specie di apparato messo al polso con delle microcamere, dei sensori infrarossi, un accelerometro e giroscopio, quindi ha tutto. Praticamente fa vedere che te, con le tue mani, praticamente vedi proprio la tua mano nel video, nel monitor, o che sia televisione o che sia computer. Cioè, ma solo il fatto di muovere, lui muove le dita, fa vedere come muove la doppia telecamera, che chiude le dita, fa ok, oppure le muove, e in tempo reale, senza lag, senza niente, Certo. risponde, cioè veramente, ma è Ha clamoroso. delle risposte, sì, dei tempi di risposta sicuramente molto, Clamorosi, molto cioè, bassi. si Bisogna collega. vedere quanto questo video non sia montato. Questo poi è da valutare, però se non fosse montato è qualcosa di fantastico. Cioè fa Sì, vedere mo quando molto con. Minority Report, tanto per riprendere la Sì, citazione. bravo, bravo, lo collega a un tablet, che non ho Esatto. visto che tablet è, lo tiene con la mano destra, con la sinistra nel vuoto, fa le gesture tipo pin to zoom con le varie combinazioni, pollice, mignolo, Sì, e sul rileva proprio tablet. quello che è il movimento. Come? Rileva proprio quello che è il Sì. movimento. Ah, Cioè, ma chiaro. fa vedere che fa la pistola e spara tipo un gioco nella Sì, lo cosa. vedo, Ma veramente, veramente bello. Secondo me, questo sarà il futuro. Già col Kinect, io ho il Kinect, come ti dissi, c'ho la bimba di 5 anni, si impazzisce. Cioè, lei gioca ai giochi della Disney solo senza joystick, Molto intuitivo senza... per i bambini, certo. Certo, poi il classico giocatore come me ha bisogno del gamepad, di sentire qualcosa da schiacciare, da usare, però mia figlia gioca Io è un con... po' questo che vedo come un possibile stop di questa tecnologia, cioè un giocatore, Beh, se noi siamo old, nel senso, fra virgolette, noi cioè io siamo nati con i videogiochi. se sto giocando a uno sparatutto, per intenderci, non voglio fare il gesto della pistola con la mano. No, però Io da giocatore chiaro, Wii mi chiaro. sono comprato il fucile della Wii e quando gioco a Certo. Modern Warfare 3 ho il fucile in mano e sparo, cioè ho bisogno della fisicità. Sì, ma quello sì, però sembra che stia prendendo campo sempre di più questa cosa. Chiaro, perché noi siamo nati con i videogiochi, parliamoci chiaro. Cioè, noi siamo nati con Arkanoid, Pac-Man, giochi dove stupidi, semplici, ma se addirittura se tu ci giocassi oggi, ci rigiocheresti con la foga di una volta. Subito anche. Bravo. Quindi siamo nati con un gamepad, con un joystick in mano. Cioè, mia Certo, figlia lo usa, sia cioè con una usa il... Bravo, tastiera sotto le dita, mia praticamente. figlia usa il Kinect, e, cioè, lo fa proprio partire da solo. Cioè, lei va via l'Xbox, l'accende, lo usa... Quindi, nel senso, io vedo un'innovazione che andrà poi su quella via lì, secondo me, a sparire completamente il qualsiasi di attrezzo che Sì, ti però ingombra. No, ripeto, per certe cose non so, perché certo, poi un po' di la fisicità ci vuole. certo, per determinati giochi, secondo me, non sono preposti per certe cose, No. no? Non si pongono per determinate E poi cose. qui c'è il discorso proprio del guanto, no? Cioè, mentre il Kinect non hai bisogno Non è assolutamente niente, di cioè. niente per poter interagire, qui hai bisogno del guanto Ora, che questo ha di è sicuro un costo. simulato un apparato al polso, poi il guanto l'ho detto io, però il Sì, no, beh, è classico. chiaro, però comunque sia un guanto, un apparato, un Sì. qualcosa, comunque sia ci vuole, no? Cioè, lo vedo un po'. Vedere qui mi ha fatto venire un po' in mente un ritorno al futuro, cioè le classiche scarpe di Martin che si chiudono Che da si chiudono da sole. sole, sì, la giacca che Cioè, si adatta alla misura da sola. Sì. bravo, bravo. Cioè, la videochiamata, hai visto come faceva? Cioè, la vedo. Sembra che il futuro sia questo, poi, alla fine. Sì, no, beh, questo sicuramente, però non lo so, lo vedo ancora un po', come si chiama, un po' di là da venire, no? Perché comunque sia, ho dato un'occhiata io al video che mi ha mandato, l'apparato che il tizio ha al polso è abbastanza ingombrante. Sì, beh, chiaro, se in fase di Sì. sviluppo ancora. Certo, però non so quanto sarà miniaturizzabile se si vuole mantenere la precisione. Per cui, boh, qui ho un punto di domanda. Sicuramente a tendere si va verso una smaterializzazione di quella che è l'interfaccia, il poter interagire con un dispositivo, semplicemente con dei gesti. Però io la vedo di più come una cosa alla Kinect. Sì, Ti sì. faccio un esempio scemo. Io ti dico comandare dal divano. Col Sì. Kinect, i film è una figata Sì, ho veramente. provato, è Cioè, bellissimo. Cioè, e poi ogni... addirittura col vocale, Sì. cioè io non mi alzo. Cioè, abbiamo fatto passi da gigante rispetto al primo videoregistratore che mi ricordo io, Vabbè, ovviamente anch'io. dietro ancora non c'ero. Col classico, cioè abbiamo fatto passi dal divano, gestisci tutto. E questo, secondo me, è ancora un'innovazione ancora di più. Cioè, proprio il classico Minority Report, tanto per Certo, tornare. certo. Però non lo so, nel senso, Non lo cioè, vedi un futuro? non negli ambiti di lavoro, forse nell'ambito, Non diciamo, ti ci vedi a sfogliare dell'home delle slide da lontano alla Minority entertainment. Ma Report? questo già Col lo faccio. guantino L'apparato no, però. di cui parlavo prima, Col già lo... guantino no. No, senza niente, meglio ancora. Questo già lo faccio. L'apparato di cui parlavo prima, devo recuperare il link, poi te lo manderò se Sì. riesco a trovarlo. Come si chiama? E consente già, per esempio, di sfogliare le slide. Io facendo un gesto come se spingessi da destra verso sinistra, torno indietro con la slide, da sinistra Sì, verso destra la mando avanti. Quindi questo è già fattibile. però questo qui sembra qualcosa di più. Cioè, se hai visto il video, Precisione è cioè... molto, sì, quello riconosce il gesto di un braccio, quello con Cioè, cui questo lavoro riconosce i io. gesti, proprio il Insomma, movimento di riconosce tutte le proprio il dita. Cioè, movimento delle dita. Questo mi aveva colpito abbastanza, poi, sicuramente. premetto, io non so se è stato montato a dovere Certo. o Però se non è stato montato a dovere, secondo me Microsoft più che su smartphone dovrebbe puntare su questo. Secondo me. Anche su questo. Ma io vedrei più su questo. Tu su questo dici? Se è vero, se questa cosa è vera, secondo me deve puntare più su questo. Poi anche l'altro, è chiaro, non è una ditta che uno preclude l'altro. Però No, di ma pari passo, secondo me, questo qui dovrebbe spingerci un po' di più. Questa è la vera innovazione, secondo me, il vero ricerca e sviluppo. beh, questo è sicuramente molto molto innovativo rispetto a quelle che sono le interfacce attuali che ci sono in giro. Questo è proprio un lavoro risultato di un team di ricerca Di un team di e ricerca e sviluppo che ha fatto un ottimo lavoro. Anche sì. perché, guarda, ti parlo, io ho visto il movimento, il tizio che simulava il movimento delle dita con la mano appoggiata Sì, hai visto? sul piano. Ti parlo da pianista, perché immediatamente ho pensato a quello, ovviamente. Il movimento rilevato dal dispositivo era davvero preciso e soprattutto non c'era il minimo lag. È quello perché il Kinect, parliamoci chiaro, secondo come giochi e dove giochi, un attimino di lag Un ce l'ha. po' di È lag ce l'hai, sì, chiaro, l'ho notato ma anch'io. questo è clamoroso, veramente. No, il lag qua è veramente, veramente basso. Poi ripeto, bisogna vedere perché Certo, beh, ci quello è sono. tutto da verificare. Esatto, è tutto da verificarsi e dovrei provarlo, ecco, come al Cioè, solito, beh, chiaro, di chiaro. mettere Però a vederlo, secondo me, il naso promette. qui, insomma. A vederlo, promette bene. Parecchio bene. Sì, sicuramente, sicuramente, E secondo me promette tanto poi molto, andremo poi lì, eh? La fine è quella lì. Togliere tutto e il più possibile. ovviamente. Nell'ambito home, sì. Io Nell'ambito parlo business di lavoro, no. No, io parlo in generale, diciamo nel totale, fra piano piano, secondo me cercheremo di far sparire il superfluo. Parliamoci chiaro, non l'indispensabile, il superfluo, secondo me cercheremo di farlo sparire. Sì, questo sicuramente. Cioè, beh, basta vedere un po' l'evoluzione che hanno avuto, anche solo i mouse e le tastiere senza fili per capirci. Cioè, tipo un esempio assurdo, tastiera olografica, dove te digiti con questo, diciamo, prodotto Microsoft, tac, tac, tac, tac, te ci scrivi sopra e via. Lì io l'ho provata, una tastiera di quelle a infrarosso, cioè che proiettano sul tavolo Sì. la sagoma di una tastiera. Devo dire che non mi ci trovo. Ho bisogno del feedback tattile Beh, su quelle dita. quello Vuoi che io ormai è. scriva a una velocità assurda e va bene. Però, boh, no, non mi ci trovo. Ho Magari è bisogno del feedback l'abitudine. tattile. Sì, no, perché è l'abitudine. Magari oggi, domani, dai oggi a domani, magari poi uno ci farà l'abitudine. Chiaro che No, perché io per esempio, guarda, proprio un esempio stupido. Io ho lo smartphone con il display touchscreen come tutti. Io faccio Sì. fatica. E ce l'ho in mano tutto il giorno questo aggeggio Anticonformista diabolico. proprio. Faccio molta fatica, tant'è che ho messo la vibrazione ai tasti. Cioè, Lei quando io scrivo ho il sì. Il feedback tattile, perché altrimenti feedback non. aptico. Esatto, perché altrimenti non riesco proprio a digitare. Per cui non so se mi ci troverei. In questo senso sono un po' old school, ecco, mettiamola così. Ma sai, se sei uno, Ah, beh, sì, certo. sei poco per andare contro. Decisamente. Bene, dai, Alberto, anche stasera un'oretta e 08 di trasmissione l'abbiamo fatta. Sperando che sia stata di gradimento a chi ci ascolta. Speriamolo. Speriamo, dai, speriamo. Anche perché, insomma, ho acquistato il microfono, infatti si sente che la tua qualità è decisamente meno migliorata. male, meno. Dammi te consiglio di chi è, non si fa il nome, se no poi dopo. Dice che non vuole essere Non vuole essere ringraziato. Marco Pizza. Tanto l'ascolterà, poi mi dà. No, i consigli me li ha dati tutti lui, dai. Eh beh, Quindi, anche perché vedendolo tutto il giorno, tutti i giorni, immagino che. che culo, eh? Hai visto? Non sei contento? Sì, no, Povero povero Marco. Marco, dai, dai, dai. È un bravissimo ragazzo. È proprio un bravo, anzi, un bravo bagai, come dico Sì, sempre, sì, perché sì. a lui No, piace poi tanto. mi ha consigliato lui il microfono, le varie cose. Abbiamo fatto delle prove perché quello che c'avevo prima c'avevo le cuffie col microfono, ora microfono diretto e via. Viene Diretto meglio, direttamente. dai. Sì, decisamente. Beh, dai, ora mi bisogna che tu mi ricordi una cosa, che mi devi Devi ricordare. dare i contatti tu. Bravo, già, bravo. Allora, Pensavi di prendermi impreparato, eh sì, i vari no. contatti che all'inizio, la prima puntata, ancora non erano definiti, ma ora sì. Allora, l'email è grpodcast@gmail.com. Poi ho creato diciamo, un microblog dove ci saranno solo ed esclusivamente le puntate dove poterle scaricare e dove poterle andare a scaricare, che è geekreflections.wordpress.com. Niente, lì trovate anche come un buon podcast. Alberto ce l'ho aggiunto, così lo sai anche te. Ho messo il tastino in alto a destra, sostienici, che un aiutino, se uno lo vuol fare, non fa mai male, visto No, che. esatto. Se ci vogliono offrire una birra, Bravo, noi prendiamola sempre come birra, non è. Poi se uno lo fa, donazione, bene, accetta. Se non lo fa, noi andiamo avanti uguale io. Ah, così. certo. L'importante è che ci ascoltate. Poi donazioni sì o no è uguale. Ma sicuramente. L'importante è che ci ascoltino, che diano un feedback, ovviamente, se la puntata Bravo. è piaciuta, se non è piaciuta, se hanno argomenti da proporre. Se non hanno argomenti, di Bravo. cosa possiamo cambiare, migliorare, qualsiasi consiglio, suggerimento è ben accetto. Benissimo, infatti, Se ad esempio infatti. ti suggeriranno di cambiare il commentatore. No, no, no, no, perché ci manca. Figuriamo. Però non me l'ha detto ancora nessuno. Commenti non ci. Meno Puntate sono state scaricate, ma commenti ancora nessuno. Può essere un bene o un male, vediamo un male. No, i po' come. commenti mi devono essere, mi raccomando, anzi, cioè commentare, commentare, Eh commentare, sì. perché quelli aiutano a capire Dove si dove sbaglia si sta e dove. andando a sbagliare, dove si sta facendo bene, aiutano a migliorare quella che è la qualità generale del podcast. Assolutamente, cioè più commenti ci sono, meglio è. Sempre migliorare fa sempre bene. Migliorare Ovviamente è fa chiaro sempre che noi, bene alla visto da noi, salute. sembra tutto fatto bene, magari visto da voi c'è qualcosa da ritoccare. Sicuramente. Beh, detto questo, siamo giunti alla fine della terza puntata. Io sono Riccardo Grassi, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto che farete del podcast. Io qui Alberto Armida, vi saluto, buonanotte, buongiorno, dipende da quando ci ascoltate. Grazie Riccardo per avermi invitato a questa terza Mi puntata. sembra doveroso, e poi parleremo anche di altre cose. Poi parleremo anche di altre cose. Grazie mille e a presto. Fate i Ciao bravi. a tutti.